But for the United States of America, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire, dice esultante Obama. Forse il via libera alla marijuana nel Colorado e a Washington lo hanno reso un po' troppo euforico. Devo dire ancora un'altra cosa. Devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire Lega! Un attimo.